Italia, Vesesi. Sì, per qua sono in stanza, sempre facendo. Noi siamo usciti presto a fare la spesa, dopo pranzo, e siamo ritratti di bombo, forse in campagna. Ciao, sei con Marendelli. Marenda, Marenda, ci va bene. Una bediva la messo con Magnetti. Oh, ma la bediva con la mamma? No, la bediva, se ti mancava la molla, ci butta la brittella. Così come bediva con la brittella. E io andavo. E la bediva con la mamma e mangio una tapparetta. La vuoi tu, Pizzi? Lasciamela un pezzettino. Ok, dai. La bacchi più tocca, la bacchi più muta, poi. E a me piace tocca. Ah, ok, dai. Se la vuoi, poi ti vai denti vuole a filo, vai. E insomma, così. Andiamo, andiamo, Claudio! Cioè, fate esogero. È un freddo pure, ragazzi. Ma non si può, no, non c'è molto questo freddo, Claudio. In campagna un po', dai. Poi c'ho le gambe congelate. Però poi già, quando cammini un po' già ti riscaldi. Ma non ce la metto la campagna, non ce la mattina a campagna. Ah, manda il lairo. Niente. A Canica. Vicino a Vittorio, Vicino a Vittorio. Ah, sì. Ho capito. La parte bassa, io sono la parte alta. Ma lo vedi che è un cocomane quel Luca? Ah, vero, mia Natalia, lo vedi. Cocomane se sei stasera, ah, si sente la voce. Me ne ha fatto un paio di pizze oggi. Ah, vero. Un attimo di bianco, riprendi. Ciao Tatali, sto facendo cosa un attimo. Ciao ciao, già siamo qua in ascolto, ciao. Ora attenzione, canale 10, cambio. Cambio basso. Beh Gianni, ma tuo figlio è in Vodafone. Cosa? Mio figlio. Tuo figlio è in Vodafone. Perché? E cazzo, quell'audio che mi hai mandato ce la pisciassi, che... Ma non è mio figlio. È una cosa che hanno mandato a questa signora Sarla dei paesi. La Vodafone l'ha chiamata. Non si trova, cosa gli ha detto, che lei di telefono non ne capisce niente, e quello gli ha detto, ma è suo figlio in Vodafone, e chi te l'ha detto, no, in Vodafone, è suo IDS. Poi gli ha detto, cos'è un'offerta, cosa c'è, la tuga è un'offerta, cosa male, dite male. Su Dash, subito presto, i carciofi le piacciono, che a marito mio lo fai tondiare. E da bisogna che è un negozio, perché sto facendo l'offerta. Cazzo di allucinante. Io pensavo che tu si chiedeva a me se mio figlio era a Vodafone. Comunque c'è il Vodafone, che lui. No, stavo chiedendo come ha detto quella lì, no? Perché gli ha detto se il figlio era in Vodafone, no? Come compagnia telefonica. No, un attimo, su cui riesce, te Vodafone. Io già ci sono i così giornati di essere solo, davvero. Più di uno ce n'è. Come quello che fa Beniturgo, che fa la voce di Desolina Vacca. Così, uguale. Un'intervista che hanno fatto a Vidiorina, sembra una vacca che fa lui. Beh, stai scendo tutto a colpi, o sono io? Io sto scendo a colpi. Ora. Ancora? No, adesso no. Quasi sia io, è già. Non lo so, sto usando questo barracchino. Quindi può darsi che non abbia premuto bene il pulsante, è capace che sia quello. Ma sei a casa, sì. Sì, sto aspettando a Marco, mi deve passare la pomata nella schiena perché io non ce la faccio. E poi devo uscire, devo andare a Città Mercato, devo fare delle commissioni. Ehi, no, vediamo io domani mattina esco, mio, perché ho ordinato dal cinese qua a Piazzale Segni due portacartine di quelli 100x70, che ho due cartine geografiche, le appendo a parete, così ce li ho da una parte e dall'altra, capito? Sono se uscito stasera, domani mattina tocca che me le portava da su da Predanietta, da giù da Predanietta, capito? Se non sei riuscito. A me io voglio farne a meno di uscire, non è che mi piace assai che con questi. Adesso mi stasera c'è Conte alle 8:20 che fa del decreto nuovo. Sì, perché non l'hai già, l'hai già visto il decreto? Come da su internet. Come sempre, come sempre. Nessuna modifica, bar chiusi alle 6, sempre, sino al gennaio. Quindi Natale, Capodanno a casa, dalle 10 coprifuoco, tutti dentro casa e soprattutto a casa non ci devono essere feste, solo i conviventi, quelli che vivono nella stessa casa, quindi tu non puoi invitare nessuno dei parenti, capito? Solo chi vive con te, hai compreso? E vabbè, io la posso venire ma te sei vicino, non la lascio al lavoro. Vabbè, discapito tuo, l'importante è che non ci sia cosa, perché Rogerio, mi si deruba l'azzo, c'è gente anche che non si fa i cacchi su, e noi avevamo organizzato in campagna tutti assieme, però non si può fare niente, e quest'anno anch'io sono io, mia figlia, mio genero, che è sempre qua, quindi dorme anche qua, perciò. E mia moglie, pazienza, e soprattutto il Capodanno, ma poi i ristoranti, cena di Natale, cena di Capodanno non ce n'è, capito? Non ce n'è, nulla. Sì, vabbè, ma cosa c'entra? Cosa devo stare? Io compreso e basta a casa, faccio venire i miei figli, anche se non vivono con me, sono i miei figli sempre. Devono però essere nel residenti lì, in quella casa, capito? È un casino, non so. Vabbè, comunque sarà un Natale e un Capodanno molto molto brutto, anche perché alle 6 sono chiuse tutte le attività, i centri commerciali sono chiusi, capito? I centri commerciali sabato e domenica e i giorni di festa sono chiusi. Quindi tutto chiuso, i bar chiudono alle 6 e poi coprifuoco dalle 10, perciò vedo Natale, vedo Capodanno, richiuso a casa senza poter uscire manco a sparare una bombetta. Ma poi ci sono delle nuove cose, delle nuove norme, normative, praticamente chiuderanno le regioni, una con l'altra non potranno comunicare, non potranno viaggiare una regione con l'altra, poi anche le città, ci sono dei giorni stabiliti che non possono viaggiare, il 31, il 25, il 26 e l'1, dal 2 si può ricominciare a viaggiare. Ehi, già lo so già a memoria quello. E poi ci sono, durante le feste non si possono fare spostamenti tra comune, quindi ha giudito, se io devo scendere a dare le auguri a mia madre a Palottolo, se non posso andare, capito? Quindi sarà un Natale molto molto triste, e soprattutto il primo dell'anno, il Capodanno, il 31. E vabbè, però Gianni, se ne vale veramente la pena per poter, siccome noi stiamo calando tantissimo, quindi se ne vale la pena per poter abbattere questa pandemia, ben venga, ma se non serve un cazzo è inutile che lo faccia. E quello è sempre un punto interrogativo, si va a tentativi, cavolo, oramai l'ho capito, non ci fanno nulla di sicuro, vanno a tentativi e basta, stanno tentando e cercando di trovare, come quando uno non sa dove va un filo, no, ci va a tentativi se quando trova il contatto giusto, e così soedi. È la stessa cosa, stanno cercando un modo per dire, in Inghilterra stanno già facendo il vaccino. Ho visto, vabbè. Mi senti bene con questa, sì? Benissimo. Vabbè, questa è la mitica. Infatti mi mancava, perché ho detto, ah, non è porto alimentazione, invece è stato facilissimo. Ho preso un bel cavo rosso nero, 6 metri da una parte all'altra, l'ho passata, non si vede manco nulla. Gli alimentatori sono sempre sotto la base degli HF, bel lavoro. Adesso domani devo alimentarne un'altra a 12 volts, così uso anche quella. Devo mettere anche il 48 già. Metto anche il 48, così lo uso, tanto hanno la stessa connessione queste due radio, lo stesso attacco, non lo stacco da una, l'attacco all'altra. Quando non ci sono splatter, ma no, giusto per farla andare. Minchia, sarà 2 anni dentro l'armadio, nuovo dentro la busta ancora, Cavagava, se metticelo, li metti nel MP5, e tanto ne hai 50. Io li hai visti, non sono balle. Oh, questo lo sto usando è connessione Alan 48. Capito? Questa è connessione Alan 48 proprio. Quindi posso usare lo stesso microfono e questa radio c'ha lo stesso attacco, quello piatto, a 3 fori come l'Alan 48. Va bene allora. Mi sono dimenticato stamattina a dirti, quando andavi a prendere il microfono, a chiedere se è arrivata l'antenna mia. Che sto aspettando una mini turbo riordinato, perché tanto c'è lo stesso attacco dell'altra. Quando sono in città metto la mini, quando poi vado fuori su strada lunga metto quella lunga. Non me l'hai detto, se non ha più del microfono, non ne ha più. Ho preso un più 4 e un più 5, tutte e due. Adesso dice deve ordinarli. Ho detto ordinali, perché sicuramente me ne serve qualche altro, o magari serve a qualche un altro. Capito? E ma io me l'ho già controllato tutto, Barossi. Cioè stai controllando, sto esci, dammi un cacciavite, apri qua, pacco batterie, vediamo se è a posto, se c'è tutto. L'ho già tutto controllato. Infatti c'era Marti un po' con la faccia così, l'ho detto, non ti offendere Marti, però qualcuno si è lamentato di questi microfoni. Capito? Perché qualcuno arriva difettoso, non è colpa vostra, però è giusto che ci conosciamo, no? Non sto facendo niente di male, sto controllando se tutto a posto. Capito? Perché cazzo non mi butti a me. Vabbè. E io lì avevo preso l'M93 e 2 MP5 l'avevo preso. Io ho poco tempo, mi erano dato pochi risorse, ho comprato la Mini Turbo, la Turbo 2001, senza contare poi il nastro vulcanizzante, ho preso tutto 3 di spray per contatti di quello secco, 3 di aria, insomma mi sono fatto il rifornimento, così almeno ce l'ho a casa e buonanotte, quando mi serve l'uso. Anche io già ne prendo roba, stamattina ho speso 120 euro solo il microfono, poi ho preso quel cavo 6 metri di rosso e nero, ho preso 2 rotte nastrosolanti, un pacco di fascette, gli peso 150 euro. Così anche io stamattina sono andato a comprare un po' per riuscire, 60 euro l'ho lasciato. Mamma mia, non mi ricordare, domani devo scendere anch'io lì a prendere il sacco per Filippo della Monchi, che c'hanno la Monchi loro. La sta mangiando molto molto bene, non ha mai avuto problemi, c'ha qua 25 kg. E quindi domani aspetta anche a me, non so quando, adesso mi ricordo se era 55 o 45, non me ne ammetto. E quanto, allora, quello che prendo io, il trainer, quando in offerta costa 46, se no costa 49,90, 50 euro. E allora è così, vuole il mio. Allora io l'ho sempre preso in offerta perché è 45, e se no costa 50. Già è così. E vabbè. Ce l'abbiamo questi cagnoni e li dobbiamo ottenere, cosa viva. Ma io gli sto dando il monoproteico con la pesce, capito? Perché la carne le la do io, la carne non ne ha bisogno, le la do io, le verdure ce le metto io, le metto piselli, le metto zucchine bollite ogni tanto. Ma Filippo butta cosa, le mangia già pronte, le piace molto. Filippo io le do molte mele, mele sì. Mele io compro a casa per Filippo, quelle insomma non di prima categoria, non la melinda, no, quelle gialle, quelle normali. Gliele lavo, le mangio con la buccia, lui le taglio tutte a pezzi, le metto in una ciotola. Mele ne mangio un bel. Le mosce che sto prendendo io sì, sono lo stesso così, c'hanno verdura, cereali, dai. Carne, cereali, verdura, cereali, queste cose qua. E ho visto che le mangia bene, quindi. Infatti la riesce papà, gliele cambiamo e prendiamole di nuovo le stesse. Al limite anziché con pollo, verdure e cereali, prendiamo mango, verdure e cereali, così cambia un po' il tipo della carne. Capito? No, una volta alla settimana io solo gli do la carne, no, non vuole il veterinario, assolutamente, ingrasso a drugo, capito? E il mio è diverso dal tuo, già, è un molosso come il tuo, ma lui per gli anni che ha deve stare, se no non cammina più. Hanno l'attitudine a ingrossare quei cani, no, Taiso lo mette i muscoli, quello che gli do di cane, no, tu mangi il cane mattina e sera, Taiso, non è che, o gli do cuori, o gli do rini, o gli do pollo, o gli do fettine di cavallo a volte gli do qualche bistecca di maiale, però fatta arrosto. La carne maiale già gliela do anch'io, però gliela bollisco, capito? La do bollita io, tutta a pezzettini, con proprio appena di un cucchiaino, neanche mezzo cucchiaino di olio d'oliva e basta. Sono fatti a tappo. Filippo è molto deliziato, è da piccolino, così. Infatti aveva avuto un problema allo stomaco anche, mangiava e vomitava. È stato curato proprio, capito? E quindi il veterinario mi ha detto di tenerlo così, prima mangiava 3 volte al giorno, adesso mangia 1 volta e boom, cosa pensi che mangia? Non mangia la notte lui, mangia solo a pranzo, prima facevo 150, a mezza mattinata gliene davo, verso le 10:30 così, poi mangiava alle 2, altre 150, poi altre 150 grammi la sera verso le 7, le 8, adesso mangia solo a pranzo, mangia verso l'1:30, 2:15, direttamente 250 grammi, boh. No, io glielo do in 2 pasti, ha sempre le crocchette a portata di mano, ma non le tocca, le crocchette per mangiare deve avere la carne in mezzo, se no non le tocca. Io gli do due pasti, gli metto pasta, carne, 2 fugi di crocchette, al pesce, insomma, ci hai tenuto bene, già non muori di là. No, Filippo, le crocchette, lui se vede la ciotola piena sta sempre mangiando, già, puzzi rugio. Quindi io le devo mangiare, gliela lavo e gliela tolgo, assolutamente, le lascio solo l'acqua e basta, la ciotola e l'acqua. Sta sempre, quando ceniamo, sta sempre sotto il tavolo con la testa in mezzo alle gambe che vuole mangiare, pure ti mette il muso sulla cuscia, sempre in mezzo alle balle. E vabbè, quindi domani mattina devo scendere per forza, perché ce n'è pochissimo, non sono ancora dolci. Ma hai visto come sono curmai quelli di dove vai tu, anche io? Non puoi fermarti a guardare gli animali che subito viene, dico, forse aiutarlo, se lasciami abbaidare, non mi faccio abbaidare, ma una cosa, uno se guarda come, se non guarda, non gli lasciano il tempo di guardare, lo compare già nulla. E io mi gioco a bizzardoci. Ascolta, ancora c'è quel pappagallo grande? Sì, quello lì è suo, non è vendero di quello. Sì, ma lasciamo perdere, va. Sì, una volta mi sono avvicinato, ma ha detto cosa? Mi ha detto di lasciarlo in pace, non so che cosa. È un po' scorbutico, non è molto tranquillo. È perché sono amici di mio genere, se no io non ci andavo mai lì. Andavo da Arca Planet, capito? Anche se è più caro, me ne ha fottinuta. Però sono gentilissimo, mi ha regalato il bidone grande per mettere le crocchette, mi ha regalato 2 ciotole, mi ha regalato il gingivotto a Filippo. Il giorno sono andato, era subito a Baidendi, piagendo i gingivotti e palline. Pasqualini Rigosci, gli ha regalato. Sono andato a prendere la pettorina nuova e mi ha regalato, perché il guinzaglio ce l'avevo già, uguale alla pettorina, però la pettorina è già vecchiotta, gliel'ho cambiata, e mi ha regalato il guinzaglio nuovo, a catena però, capito, non ce l'avevo a catena, perché mi ha detto, ma ho visto c'è il guinzaglio in pelle già. Ho detto sì, allora gliene regalo uno adesso a catena, semicorto, col manico praticamente, uguale al coso, alla pettorina, capito? Sono molto gentili, sempre mi chiede come sta il cane, e sono molto gentili, lì già me ne sono accorto che sono un po' scorbutici. Siamo avvicinati al pappagallo, no? E io praticamente ho visto che il pappagallo aveva il becco, era attaccato col becco e appeso l'ulla, e tu sa, non è che si è incassato, no, lasciatelo in pace, quell'animale sta giocando, lasciatelo in pace. Io l'ho giudicato così, non è che non mi sono mai avvicinato bene bene, capito? Ho visto così, non ho neanche chiesto, pensavo fosse in vendita, figurati. Perché io entro, esco e prendo quello che mi serve, minnanto. Ti ripeto, la roba, compro solo le crocchette lì praticamente, tutto il resto lo prendo da Arca Planet. Ma tu dove ti servi? A Pascoli? No, credo che agli Abruzzi. Ah, ho capito, dietro le fornitore lì. E io lì non ci sono mai andato. Io mi servivo di fronte a Città Mercato lì. Mi trovavo bene abbastanza, però certe cose le prendo da lui, certe cose le prendo da Caplanet, perché lui non ce li ha, tipo i biscotti, che per prendere devo andare a Caplanet, i biscotti li vedo ai canarini, che si rimangono a profusione, infatti mi sa che mi conviene comprare i pavesini, che costano meno. Ancora anche i biscotti, sì. E un pacco di pavesini, mamma ce l'hai canarini. Mette pavesini, lo mette pavesini, le gallette, mi anche le gallette sono buone, le gallette sono dure, loro le piace rosicchiare. Ehi, anche il pane duro gli piace, lo sai, però lo devi mettere intero, gli piace proprio, sì, gli piace becchettarlo il pane duro, li biazzi, non è che non gli piace, però io a volte non me ne sta più avanzando, prima me ne avanzava sempre di pane, lo mettevo in durine e glielo davo, ma mi ha preso compagnia di tutto. No, mamma le buone gallette, di galletti, e se no lo fa a fette il pane, no, quando avanza lo fa a fette, lo fa indurire e poi glielo mette in mezzo alla gratta della gabbia e sta tutta lì. Sì, le piace molto la roba dura, il pane duro, addirittura c'è un allevatore, un amico mio che è allevatore, che ha di gabbie, un garage enorme, tutto pieno, fuori dalle voliere, cose, c'ha tre voliere grandi, c'è il giardino, cazzo, con tre voliere e tutte piene di uccelli. E lui va nei panifici, lo fa essiccare, il pane gli danno raffermo, no, del giorno prima, se lo fa mettere in forno, lo fa essiccare e poi se lo compra così, se lo compra a sacchi e glielo dà piano piano, perché bisogna farlo essiccare, se no si mette la muffa. Sì, anche mamma fa così, anche mamma fa così, mio fratello lo stesso ce li ha, no, mio fratello c'ha i cosci, i cocoriti, qui si chiama, una coppia, mentre mamma che gli ha dati mia sorella, quella di Alghero, c'ha nei canarini. Vabbè, non è entrato nessuno stasera. Luca Perivella. Lucrezia Borgia. Non è entrato. Cazzo, quasi 20 watt sta dando questa radio, allucinante. 18 watt. Qual è questa? Questa è l'Elbex 4082. Ah, forse quella persona ce l'aveva prima, l'ha aumentato di watt. No, questa ce l'ha regolabili. Ce l'ha regolabili watt. C'ho il pomellino del Power, ce l'ha regolabili, infatti questa usavo col lineare, io ho capito, le davo proprio i watt giusti, mettevo le cuffie sino a quando non saturava, le davo l'ingresso per il lineare. Così così è comodo, perché non puoi usare sia una manina che l'altra. Infatti, adesso è a watt e piedi, già va bene. 15 watt, 18 modulati. Se fischio anche quasi a 20, sa. C'ha 240 canali questo, bello. E io così c'ho... c'è il coso, il manico che è così, che si può regolare, si possa regolare il watt e il galaxy. Ma non lo, diciamo che si regola, però al massimo da 9 watt, perché è regolato così, ma il galaxy arriva fino a 15, che li puoi dare. Tutto questo scende quasi a 2 watt e mezzo. Parte da 2 watt e mezzo sino a 15 watt. Questo non è tirato di collo, capito? E diciamo che è così. Però cioè, va bene. Va bene così che si può aumentare quando vuoi e tutto. Infatti che ho il lineale U. Tanto quando usi vintage così vanno bene i watt sui, però questo è quello che dà più watt di tutti, capito? Cala, cala. Adesso un'altra cosa mi devo comprare, e quando vado da Bricco, però non ci sono voluto andare perché era sempre con la fila, a casa è un casino. E non ci sono voluto andare da Bricco. E mi devo comprare il biadesivo perché lo uso molto. Guarda che il biadesivo ce l'hanno, ce l'ha quelle cinesi, io l'ho comprato 2 rotoli. Fitta che a muro lo puoi attaccare, guarda chi. Ah, 1 euro. Anzi, mi vai 50 centesimi, 1 euro. Grande, bianco, quello dove siamo andati a prendere il caffè noi, il cinese che c'è in Piazza dei Sei. Io tutto li prendo. C'è questo nastro, ho preso un nastro vulcanizzante già. Ma lo sai quanto è buono? Buono, ve lo tiro, cazzo, non si rompe. Buono, c'è roba buona quel ragazzo. Ma io prendo quello della Plantex, quello lì è l'unico che tu vai a staccare il baracchino, poi io li attacco, per non metterli le viti, li attacco ai ripiani, no? Quello farlo muoversi, li metto. Beh, tu vai a staccarlo, si piega la staffa, ma non si stacca il baracchino, bisogna scaldarlo con l'asciugacapelli per staccarlo. Questo non ho provato. Però già è buono, io non è che li uso molto, però capita che adesso il commutatore d'antenna non potevo metterlo a nastro biadesivo, il commutatore d'antenna l'ho messo a, con le viti tassellato a muro dall'altra parte, però non si vede sotto, a fianco alla base sotto non si vede, perché se poi vai a muovere e fare gatto di ningaggi, ci sono i cavi grossi attaccati, capito? Ho fatto dei buchi a muro, ho messo i tassellini piccolini, li ho messo 4 viti, 2 sotto e 2 sopra, perché era predisposto per le viti, capito? Ehi, ehi, ehi, vabbè, io non ne faccio di buchi a mezzo, a me io lo odio fare i buchi, perché poi se dici di ritornare con l'apparecchio, magari se si rimangono i buchi ne devi fare altri, perché non combaciano con quelli che ci sono nella staffa, eccetera, è sempre una cosa brutta fare i buchi, è meglio col mio adesivo che lo togli quando vuoi, anche se è talmente forte che se non usi l'asciugacapelli, quello che ho io è un bel forte, quello della Plantex se secondo me è il migliore che c'è. Beh, è una casa costruttrice che fa nastro isolante, biadesivo, nastro gommato, intera, insomma, è quello. Fa dei silicone, fa tutta roba così, dai. No, vabbè, io non devo fare buchi nel legno, no. Adesso, le scrivanie mie sono un po' nuovo. Nel muro ho fatto, io non ho bisogno di nastro biadesivo, tutto in piano, tu c'hai immobile. Io ho la base lunga, già l'hai vista, quindi in radio non ce n'è una, ce n'è solo una sopra l'altra, le altre sono tutte fatte a coso, capito? Già va bene, no, il legno non si tocca, non si buca. Io ho bucato il muro, ho messo 4 tassellini, ma piccoli, giusto con delle viti per mantenere bene il commutatore d'antenna. Ho pensato l'altra volta, ma se io prendo il cavo lungo, porto l'alimentazione a 12 ci fosse anche, ho la possibilità di attaccare anche qualche baracchino a 12 volts, infatti così ho fatto. Mi ho spostato anche il 430 a questa parte, dove sono i vintage, intanto Puruliscio già è vintage, perché c'è più spazio, lo posso manovrare meglio, capito? Dall'altra parte invece ci sono le due linee sempre del 140. Va bene, va bene. Allora, c'è nessuno che vuole entrare sul canale 10, come dice Roberto Quadrato? Ciao ragazzuoli, io sto mangiando, vi sto ascoltando, buona serata a tutti. E me lo immaginavo, ciao Marco. Ciao Ratapignara, cazzo sempre prima niente, dice che ore sono? E anzi, oggi stai mangiando presto, non sono neanche le 6:30. Sì, in realtà avrei già mangiato, però mi sto facendo un piccolo toast, un paninetto con quel pan bauletto. Poco fa sono uscito, ho preso due cose in farmacia, due al market, poi mi sono preso biglietti per l'autobus, per quando non ho voglia di guidare, e c'era un'umidità, una bella umidità, proprio molto molto umido e freddo. E ho iniziato a piovigginare come sono uscito, ho portato l'ombrello, infatti sono rientrato appena possibile, mi sono scaldato e tutto, dai. Riprendete pure Quirix per me, per ora. Ho detto, mandalo un attimo, cara, non vuoi manco guidare adesso. Ma non avete visto il tempo tutta la settimana? Non solo questo fine settimana, da lunedì a venerdì di nuovo pioggia. Eia, stiamo attraversando una perturbazione e quindi sarà un po' così il tempo. D'altronde è rimasto buono anche troppo il tempo, prima o poi doveva peggiorare, e le temperature stanno calando. E infatti a casa comincia a aver freddo, ho cominciato a scendere stufa elettrica oppure a gas e tutto il resto. Qui l'apparato va tutto bene, questo era fermo, è quello che mi piace meno, questo è il 9009. Stai andando benissimo alla grande, io sto andando con l'Airbag, ti ascolto benissimo. Va bene, riprendete pure, dai, vi faccio questo toast. Io dalla me il 9009. Sì, già, se lo vuoi ci mettiamo d'accordo. Sai cosa non mi piace di questo apparecchio? Sì, c'è un bel watt, c'ha 15 Nm, modulati sono anche di più, 45 NFM, 60 NSSB, però il fatto che scaldi molto a me non mi va di questo apparecchio. Non solo, ma anche se metti 4 watt, questo tende a scaldare comunque molto, è progettato un po' così. Potevano progettarlo meglio, perché io ho altri apparati che hanno quasi la stessa potenza e non scaldano niente, ma niente. Vai Gianni. Ma io ti do il cobra, mi dico. Che era questo 9009? Non lo conosco, ma cos'è? Attacco a 4? No, 6 o 7 poli. Allora cerca Claudio, CRT 9900, CRT 9009, è il più piccolo di quella serie dei CRT, e quindi c'ha un'infinità di canali, tante cose da menu, tutte cose inutili, tipo Echo, Roger Beep, tante altre cose, dai, può funzionare in modalità quasi VFO, quasi. Gioco che piace a me. Ma cos'è, piccolino, veicolare? Naturale, ti dirò, è il più piccolo di quelli veicolari come frontalino, è il più lungo come profondità, però il frontalino è a norma DIN, credo, è come un autoradio, norma DIN dovrebbe essere, qui lo dico, qui lo nego, solo che il fatto che scaldi a me rompe molto molto le palle. Anche con 4 watt fai un passaggio, 2, 3 e poi cominci a scaldare a bestia dietro. C'è un bel dissipatore, però non mi va a me sta roba che scalda, mi scoccia. Sì, ma io ci metto la ventola, quello non è un problema. No, così piccolo ne voglio. Mi devo sentire a Danilo, che mi aveva detto che doveva, che voleva vendere, non lo so, il Galaxy. Se me lo vende mi compro un Galaxy Saturnecco. Guarda, questo ha di bello che la modulazione, per esempio, così sono a tre dita dal mic, così sono con il braccio tutto a fanculo ricevitore, sono con il braccio tutto lontano dalla bocca, come vedi vedo i picchi di modulazione che sono bijou. Qua non hai bisogno di mic da tavolo, capito? Che pali vicino o che pali lontano va bene lo stesso. Sì, è vero. No, ma mi sembra che te l'avevo detto, che però non non sapevo si chiamasse del 9009, boh, non so. No, non ho un problema ai microfoni. No, ma veicolare non ne prendo, basta questo, sennò io devo fare questa scrivania, questa base la devo fare con tutti i base, capite? Adesso vediamo, dopo le mando un messaggio a vedere se me lo dà questo Galaxy, perché stava pensando di prendere un Galaxy Saturn, ecco, così usiamo anche quello, dai. Eia, bianco per me, riprendete. KK. Tanto Bologhis è vintage, quindi non è che vintage, il più vecchio di questi che ho io, il DAC non so di che anno sia, che anno è uscito nella radio americana, ma dovrebbe essere il Pony. Il Pony mi sembra che sia più vecchio, bisogna sentire a Gianni, il Pony mi sembra che sia più vecchio del 294 della Inuit, boh, devo vedere. Eia, sì sì. Ce l'aveva veicolare Bruno, il gomista, quello che c'era da Lopez, quello lì quando scendeva in macchina mi diceva mi buca che così poi te le aggiusto io le gomme, la mazza dell'invaria. Boh, lascia perdere. Uia uia, vabbè dai, già, io mi devo allontanare perché, ti ripeto, c'ho mia moglie allettata e tra l'altro poi domani devono anche operarla, quindi devo preparare la cena, dai, ci sentiamo dopo, preparo due cosette e poi ritorno qua in radio, va bene? Eia, va bene, dai, ciao ciao Claudio, ci sentiamo. Già lascio la radio accesa, dai, quarto d'ora, 20 minuti mi allontano, è tutto acceso comunque qua, non c'è problema. Avanti se vuoi entrare qualcuno. Gianni ti chiamano. Ciao Marco, ascolta, poi il canale di due, del canale 8, poi scendi di due. Sì, un istante solo che ho le mani fatte di maionese, un attimo. Gianni, sei rientrato? Leone 10, c'è qualcuno in ascolto, K? Oh, yes. Hola, hola, c'è qualcuno sul canale 10, cambio...